1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7 e 22 minuti e ci siete anche voi, finalmente svegliati da poco, come dico io, razza di debosciati, con il tema di oggi che tratteremo più avanti con i nostri ospiti. Avremo il direttore del giornale Alessandro Sallusti, il direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro, ci sarà con noi anche Gino Strada, fondatore di Emergency. Insomma, avete capito, parliamo dell'elezione al Quirinale, l'elezione al capo dello Stato, del capo dello Stato. Oggi alle 10 la prima votazione, sarà Franco Marini? Chi lo sa? Intanto andiamo a scoprirlo leggendo i giornali in edicola. In edicola non troverete oggi, giovedì 18 aprile, Il Sole 24 Ore. Come abbiamo sentito nel giornale radio, è stato proclamato ieri sera uno sciopero da parte dei giornalisti. E allora i titoli degli altri quotidiani sono tutti dedicati alla nomina, alla scelta di Franco Marini come uomo che dovrebbe essere il frutto dell'accordo tra PD e PDL e dovrebbe essere lui l'uomo eletto al Quirinale. Sarà così? Chi lo sa? Intesa su Marini, ma il PD è spaccato. Corriere della Sera, questo è il titolo di prima pagina. Oppure Repubblica, Bersani candida Marini, si spacca il PD. La Stampa, Marini presidente, intesa a rischio. Il Messaggero, intesa su Marini, il PD si spacca. Vedete, tutti i titoli dei giornali sono su questa frattura all'interno del Partito Democratico. Il Fatto Quotidiano, B&B, inciuccio sul colle, Marini, rivolta nel PD. Libero, Bersani, marinato. L'Unità, Bersani, sia Marini, scontro nel PD. Il Giornale, Marini, presidente. Il Manifesto mette la foto di Rodotà per il secondo giorno consecutivo, punta su Rodotà, il titolo è Giusto lui. Il Secolo XIX, il PD si spacca su Marini, mentre Avvenire, la prova del colle, mette il titolo di prima pagina. Sarà Marini? Chi lo sa? Lo scopriremo tra poco. Prima però voglio partire da quello che è un libro. Io sapevo che sarebbe uscito e voglio assolutamente invitare, lo faremo magari lunedì, magari appena possibile, Mario Giordano, direttore di TGCOM24, è uscito con un nuovo libro, o meglio, il libro uscirà martedì prossimo, per la verità. Il titolo è Tutti a casa, ma la casa non è un'invocazione alla Grillo, i politici tutti a casa. È un nuovo libro inchiesta sulle case comprate dai politici, e qua, ragazzi e cari ascoltatori, c'è da mettere veramente le mani sul volante, dai, facciamo così, mani sul volante per tenerle strette, per non sbandare. C'è un'anticipazione che è la prima pagina di Panorama, come abbiamo raccontato prima nel nostro Parlamento, ma oggi anche su Libero, giornale con cui collabora Mario Giordano, c'è un'anticipazione in prima pagina: case a prezzi di saldo per i VIP, godono pure Befera e Grasso. Il trucco è sempre quello, trucco, non c'è niente di illegale, comprare case a prezzi ribassati rispetto ai prezzi di mercato, perché magari sono case, non so, vendute da enti, casualmente finiscono spesso ai politici. Prendete Attilio Befera, scrive Mario Giordano, che non è un politico, il Grand Dominus di Equitalia, lo sceriffo delle tasse, direttore dell'Agenzia delle Entrate, pure lui duro e implacabile, uomo capace di strizzare le tasche di tutti i contribuenti senza mai battere ciglio. Ebbene, anche lui, quando si è trattato di comprare casa, ha cercato di ottenere un abbondante sconto. Evidentemente ci è riuscito. Ha comprato 7,5 vani in via Benedetto Croce all'Eur, acquistati a 369.000 euro, ma secondo la stima Cerved quell'appartamento vale almeno il 35% in più. Ma ce n'è di tutti i nomi: Vittorio Grilli, ministro dell'economia, che ha comprato un appartamento esclusivo a 1.065.000 euro contro un prezzo che è stimato di 2.256.000 euro, cioè superiore del 53%, o Antonio Mastrapasqua, Giuliano Amato. Ce n'è anche per Franco Marini, il nome più gettonato per il Quirinale, almeno oggi. È incontentabile Franco Marini, segretario ex della CISL. risulta proprietario insieme alla moglie di un grande loft romano, 14,5 vani e mezzo, circa 300 metri quadri ai Parioli. Secondo l'Espresso lo avrebbe pagato meno di 1 milione di euro, per l'esattezza 999.996 euro, che non è poco certo, ma neppure molto considerata la dimensione e la zona particolarmente di pregio. Secondo la stima Cerved, quell'appartamento varrebbe 2 milioni e 47 mila euro, quindi più del doppio. Eppure Franco Marini non è contento. 1 milione di euro per un piano rialzato e uno scantinato vi sembrano pochi? Minimizzò parlando con Repubblica. Adesso c'è il parquet, ma prima la casa dovevate vederla. Scala stretta e buia, il loft pieno di umidità. Mia moglie si lamenta pure e il secondo bagno si trasforma in un bagnetto di servizio, lavanderia, cucina spaziosa, tanto che Marini si spinge ancora più in là nella lagna, pagata poco, ma che troppo, avrei voluto un ulteriore sconto, dichiara. Sarà mica per questo che vuole andare nel più comodo Quirinale? Rispetto, aggiungo io, questo non è che lo scrive Mario Giordano, ma evidentemente con questa umidità al piano rialzato e col bagnetto e senza perché vuoi mettere gli arazzi del Quirinale, che differenza. No, a parte gli scherzi, ecco, il libro Tutti a casa esce martedì prossimo, scritto da Mario Giordano, i politici, ma non solo, i potenti e l'acquisto delle case. Ne parleremo, tranquilli, ne parleremo. Voglio raccontarvi, come dire, agli antipodi questa storia rispetto a quella che vi ho raccontato in apertura. La trovate sul Corriere della Sera, firma Marco Bardesono, a pagina 25. È una storia di un signore di 80 anni, Silvano, pensionato sfrattato, che vive in viaggio sui treni ed è anche fotografato. Conosce gli orari ferroviari a memoria, le coincidenze, i controllori. Silvano Toniolo, 80 anni, mai stato ferroviere, semplicemente da 8 mesi vive sui treni, in movimento. Grazie a una tessera per viaggiare gratis da quando ha avuto un ictus che lo ha reso parzialmente invalido, ha deciso di utilizzarla per darsi un letto quando è stato sfrattato. Ieri mattina è partito per Savona, oggi andrà a Vercelli, tra una meta e l'altra la gente lo conosce, lui conosce la gente, incontra il mondo, dice incontro tante persone, un po', ricorda un po' la storia, ma questa volta in viaggio invece che quella stanziale del film The Terminal, no? Ricordate, con Tom Hanks, questo signore che viaggia sui treni. Sono stato sfrattato, le mie mete preferite sono gli istituti dei Salesiani di Alassio, Imperi, Aldo Orione di Sanremo, d'altronde ho vissuto in una missione in Uganda, giro con questa tessera, non mi sono mai fermato a dormire in stazione, ma viaggio di notte, scendo a fine corsa, risalgo su un altro treno in coincidenza e così via. Certo, i rischi di questa vita mi hanno derubato due volte, porto con me solo uno zainetto nero che uso come cuscino, ho solo pochi euro con me, ormai conosco tutti, i controllori quando mi vedono mi offrono un caffè, ma io ci tengo a sottolineare, non sono un barbone, non mi sono mai lasciato andare. Quando mi sveglio la mattina sul treno vado nella ritirata del vagone, faccio toilette, il resto della mia roba l'ho lasciata in custodia in un istituto religioso, vado lì ogni tanto per prendere ciò che mi serve e fare il bucato. E non si lamenta neanche più di tanto, dice: viaggio, incontro molte persone, mi apro con gli altri, conosco quasi tutti, certo, se mi assegneranno una casa non rimpiangerò questa vita, 80 anni e la notte vorrei dormire nel mio letto. Ecco, uno legge questo articolo che trovate sul Corriere della Sera di questo pensionato sfrattato dopo aver letto quello sulla casta e il mattone e la casa. E non so, io il volante non ce l'ho, il microfono non posso stringerlo perché sennò succedono questi suoni un po' fastidiosi. Vado in pubblicità e tiro un piccolo pugno alla scrivania. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Allora ci siamo, sono le 7:36 minuti, cari ascoltatori. Oggi alle 10 si riunisce per la prima votazione, sarà già decisiva la prima votazione, chi lo sa, il Parlamento con le Camere riunite, 1.007 saranno, perché ci sono anche grandi elettori, parlamentari, senatori, tutti nell'emiciclo del Parlamento, chissà come staranno, tutti un po' pigiati, tutti un po' uno sopra l'altro, in braccio all'altro, per votare il capo dello Stato. Sarà Franco Marini? Questo è il nome frutto dell'accordo che c'è stato, l'intesa tra PD e Popolo della Libertà. Il tema è che però subito nel Partito Democratico, come racconta il giornale, c'è fibrillazione a dir poco. Francesco Verderami sul Corriere della Sera scrive: il Partito Democratico ribolle come una tonnara. Allora la questione è questa. Flashback. Ieri che è successo? Il giornale fa sapere con Adalberto Signore a pagina 5 che in mattinata il Cavaliere è sparito per 3 ore per decidere la linea. Che è successo in quelle 3 ore? Uno va su Repubblica ed ecco il racconto a firma Francesco Bei dell'incontro segreto tra Bersani, segreto mica tanto visto che è tutto spiattellato sui giornali, tra Bersani e Berlusconi. Questo è l'incontro che secondo alcuni, se credete a questa teoria, ha portato all'inciucione. Francesco Bei, prima pagina di Repubblica, il Cavaliere silura Mattarella, questo è il titolo. La nostra rosa è questa, Mattarella, Amato, Marini. Ora dovete scegliere. È l'ora di pranzo e Pierluigi Bersani formalizza così l'offerta al Cavaliere. Il segretario del PD presenta al leader del PDL un tridente, ma in realtà, spiegheranno i suoi in serata, da quel momento e per tutto il giorno sarà sul nome di Mattarella, che cerca invano l'assenso del suo interlocutore. I due si incontrano in un luogo segreto. Gli indizi portano al quartiere Testaccio, a casa di Enrico Letta, dove sono presenti anche Maurizio Migliavacca, Dario Franceschini e Vasco Errani. Il vertice non dura molto, Berlusconi prende tempo, ne devo parlare coi miei, poi va via. Subito si infila in una riunione a Palazzo Grazioli con Alfano, Verdini, fedelissimi. Come si fa a non mettersi d'accordo con Bersani sul capo dello Stato? Io con quelli del PD ci parlo sempre, mentre i grillini nemmeno salutano. Così è quello che dice anche Salvatore Sciascia, che s'aggira attorno alla riunione. Però Mattarella subito no. Perché? Perché nel 90 si dimisero i 5 ministri della sinistra DC, tra cui appunto Mattarella, si dimisero dal governo Andreotti nell'estremo tentativo di non far passare la legge Mammì, che cristallizzava il monopolio TV del Biscione. Allora questo non glielo può perdonare Berlusconi, nonostante Bersani insista tutto il giorno su Mattarella, dice no a Mattarella. Giuliano Amato sarebbe la scelta prediletta da Berlusconi, racconta Repubblica, ma il Cavaliere non è più convinto, perché dice su Amato il PD si spacca e noi poi ci ritroviamo Prodi o Rodotà al quarto scrutinio. E quindi D'Alema se ne parla, e come, il Cavaliere in fondo si fida di lui, gli riconosce il ruolo di capo della sinistra, sa tenere a bada i suoi, ma gli fanno sapere da sinistra: è troppo, Baffino è troppo anche per noi. E allora non resta che Franco Marini. Infatti Berlusconi poi dirà: è il meglio che si potesse ottenere. Tra l'altro Berlusconi, prima di rientrare a Palazzo Grazioli, cosa fa? Ordina i suoi della scorta di andare da Franco Marini, quindi incontra anche il lupo marsicano, come viene definito. Cari ascoltatori, se si crede alla giornata di ieri raccontata da Francesco Bei su Repubblica, Berlusconi poi va anche da Franco Marini a rassicurazioni. C'è anche questa frase che conclude l'articolo: Marini sa bene come funziona la magistratura in Italia, una frase messa tra virgolette e attribuita a Berlusconi. Raccontata così sarebbe proprio la prova dell'inciucione estremo. Infatti giornali come il Fatto Quotidiano, avremo il direttore Antonio Padellaro con noi alle 8:15, tuona B&B, inciucio sul colle, Marini rivolta nel PD. Anche Francesco Verderami nel suo retroscena in prima pagina racconta dell'incontro tra Bersani e Berlusconi. Dovrò essere io ad annunciare che si va su Marini, aveva detto il segretario del PD, e il Cavaliere Berlusconi accoglie la richiesta. Certo, riunirò il mio gruppo dopo il tuo. Più che un gentleman agreement, è stata una richiesta politica, perché Bersani ha detto: è che ho le mie cose da gestire. Queste cose, racconta Verderami, sono le fibrillazioni del partito, un Partito Democratico che ribolle come una tonnara. Bersani aveva tentato di infilare nella lista dei candidati anche Mattarella, ma l'operazione era stata vissuta da Berlusconi come un tentativo di spaccare l'area popolare, far saltare l'intesa. e allora le cose per il segretario del PD diventavano di minuto in minuto più complicate. Vendola si smarca, si faceva attrarre dalla candidatura di Rodotà annunciata da Grillo, Veltroni si imbufaliva e poi le cose di Bersani sono diventate un casino. Così Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Il casino all'interno del Partito Democratico. Guardate alcuni titoli: drammatica assemblea assediata dai militanti, siamo su Repubblica, Tommaso Ciriaco a pagina 3. A tarda sera la rabbia dei militanti si sfoga al Teatro Capranica, transennato dalla polizia, cartelli e slogan per contestare la candidatura di Franco Marini. Per la verità non erano tanti, dalle immagini sembravano una cinquantina. Comunque la stampa anche, la rabbia dei militanti, traditori. E ancora, addirittura per il Fatto Quotidiano, contestazione del PD, il segretario va via dal retro. Wanda Marra, pagina 3 del Fatto Quotidiano, scrive che addirittura Pierluigi Bersani, la faccia, davanti a chi lo aspetta fuori al cinema Capranica, non ce la mette, esce da una porta secondaria mentre la folla urla «Non lo fate, non lo fate!» Alcuni invocano «Rodotà, Rodotà!» Insomma, c'è fibrillazione nel Partito Democratico. Renzi, ieri era da Daria Bignardi e ha detto chiaramente: votare Marini è uno sgarbo, è un dispetto al paese. Lo strappo di Renzi, partito dilaniato, no anche dalla Bindi e no dai giovani turchi, cioè Matteo Orfini e Alessandra Moretti. Così a pagina 6 del Corriere Maria Teresa Meli racconta di un Partito Democratico davvero spaccato. Renzi annuncia il no, sulla stampa c'è anche questa frase: ma ve lo vedete Marini a parlare con Barack Obama? Tanto che allora ci si chiede: ma ce la farà o no questo Franco Marini? Il calcolo più interessante, anche se si va a spanne, lo trovate sulla stampa, pagina 2. Allora ricordate, oggi alle 10 la prima votazione, e la procedura è molto lunga perché sono 1.007 grandi elettori, si fa la chiama, cioè ognuno deve andare lì, passare attraverso il catafalco, che sono queste strutture che vengono messe dove per garantire il voto segreto, poi mettono il voto nell'insalatiera, si chiama così, poi ci sarà 1.007 scrutini, tutti a leggere, Amato, Rodotà, Bescapè, Milan, leggono tutti i nomi, magari non so, anche Bescapè prende un voto, non lo so, e questa è la procedura lunga e la stampa fa i calcoli, pagina 2, 1.007 elettori servono alle prime votazioni la maggioranza di 672, questi sono richiesti, 672, allora, togliendo 162 del Movimento 5 Stelle che votano Rodotà, 39 della Lega che hanno la loro candidata la Dall'Ago, 60 più o meno renziani del PD o coloro che dicono no, Marini non lo votiamo, 45 di Sinistra Ecologia e Libertà che dicono no, Marini no, votiamo Rodotà, e poi eventuali calcolati, ovviamente qui si va sui calcoli a spanne, 24 franchi tiratori di PDL, Fratelli d'Italia, insomma anche del centrodestra possibili nel voto, nel segreto delle urne c'è tutto. La stampa arriva a dire che sottratti questi voti si arriva a 677 voti, dunque ce la farebbe Marini di 5. Insomma, questo a capire che non è mica detta, è tutto sul filo del rasoio, tanto che Libero titola così: se il PD si spacca e quindi Marini non ce la fa, pronti D'Alema e Amato. Io l'ho detto, in realtà Massimo D'Alema. Secondo me è lì pronto a dire tanto Marini non ce la fa. E poi, toccherà a me. Chi lo sa, il traffico. Insomma è tutto nebulosa, tanto che Mario Aiello sul Messaggero, Mario Aiello è uno dei giornalisti più bravi a mio modo di vedere nel descrivere anche il colore, l'attesa, il contorno della politica, nell'articolo intitolato In transatlantico con lo spettro dei franchi tiratori, scrive in prima del Messaggero: per andare dove dobbiamo andare, sono Totò e Peppino naturalmente, ma è anche la scena riassuntiva della grande nebbia che ha avvolto i 1.007, i grandi elettori nella lotteria del Colle cominciano a intravedere qualcosa nella nebbia verso sera, fino a quel momento nomi che ballano, riunioni democrat e pidielline convocate, sconvocate, riconvocate, boh, voglie di ammuina. insensatezze del tipo di quella di Calderoli che su Cassese dice si chiama Sabino come la mia prima moglie Sabina. Ti pare che lo voto uno così? Giostre di quirinabili che girano a tutta velocità e poi nella danza di ombre cinesi ci siamo incartati e la sintesi di Sposetti comincia a stagliarsi la sagoma da vecchio alpino di Franco Marini, che prima era salito, poi sceso, quindi recupera e occhio ad Alema in rimonta, anzi no, il comandante Max pare non ce la faccia. E la Gabanelli che dice? Spunta perfino la candidatura di Fernanda Contri, resiste ma poi crolla Amato, il quale l'altra volta quando sfiorò il colle senza espugnarlo confidò ad Alema, almeno mi eviterò le prime della scala. Rodotà non lo vedo neanche se mi non lo voto neanche se mi tagliano entrambe le mani, è lo sfogo di un singolo deputato democrat, ma che parla a nome di tanti altri che si sentono scavalcati, offesi da Grillo, ma il grillino Roberto Fico li avvicina e dice: ma Rodotà che ha di male? Non è uno dei vostri, anzi, dovevate pensarci voi a candidarlo. Penseranno magari a votarlo, almeno qualcuno di loro, ma nel segreto dell'urna. E intanto passa in transatlantico il governatore Campano Caldoro e qualcuno gli urla: vacci tu al Quirinale! Pochi metri più in là, in un divanetto del transatlantico, siede Cesare Marini. Cesare Marini, ex parlamentare, che scherza: forse voteranno Marini, ma chi? Io? E vabbè, va così. E questo è solo uno stralcio dell'articolo che trovate sul Messaggero, Mario Aiello, come si vive l'attesa per questo giorno. Altre beghe politiche. Oh, pare che arrivi la prima espulsione del Movimento 5 Stelle. Rischia grosso Marino Mastrangeli, 41 anni, senatore, afficionato di Barbara D'Urso e comunque di trasmissioni. Prima è andata a Barbara D'Urso, poi è andata a Ballarò, poi è andata a Piazza Pulita. Troppo in TV. Crimi chiede la prima espulsione. Crimi che è andato da Vespa, peraltro, da Porta a Porta, ma è andato una volta da capogruppo. E la fatua contro Mastrangeli, racconta il Corriere della Sera, pagina 9, con Emanuele Buzzi. Noi lavoriamo, lui è dalla D'Urso. Il senatore però si difende: chi mi vuole espellere viola il codice di comportamento, io epurato assolutamente no. Chi lo sa, era quel cittadino che dice: quando un cittadino giornalista mi chiede di intervenire, io cittadino politico intervengo per spiegare ai cittadini ascoltatori. Questo è il senatore Marino Mastrangeli, troppo spesso in TV, questa è l'accusa dei grillini. Lasciamo per un attimo la politica, andiamo all'estero, dove pare ci sia una svolta nella vicenda di Boston, l'attentato, perché alcune telecamere avrebbero colto l'immagine di una persona sospetta che telefona dopo la prima bomba e poco prima della prima bomba invece si abbassa, forse a raccogliere qualcosa, forse a innescare l'ordigno, forse a schiacciare il pulsante. Ecco, questo si chiede la gente. Si chiedono ovviamente gli inquirenti. Guido Limpio racconta, pagina 13 del Corriere della Sera: tradito da una telecamera si rafforza la pista del terrorista solitario. Sarebbe stato ripreso da una sorveglianza del negozio, una telecamera posta sul tetto del negozio Lord & Taylor, che probabilmente il presunto attentatore non ha visto troppo in alto, ma l'occhio elettronico ha visto lui, ne ha fissato le mosse tra la folla, poi si è chinato lasciando qualcosa per terra, forse una borsa o uno zaino, infine si allontana telefonando ed è lì in quel punto davanti al ristorante Forum e tra gli spettatori che esplode la seconda bomba, un filmato che avrebbe poi trovato conferma in una ripresa di una TV locale. C'è sempre lui. Chi è questo lui? Pare bianco, cappellino da baseball, quindi chiaro, cappuccio grigio, giacca nera, confusione un po' nelle immagini, ma forse potrebbe essere l'uomo che ha schiacciato il pulsante e che ha compiuto questa strage. Vedremo, questo lo trovate sul Corriere della Sera. C'è ancora tanta cronaca, io vi segnalo solo due articoli ancora per il secondo giorno consecutivo. Lo voglio fare, questa follia dell'esclusione di Fabri Fibra dal concerto del primo maggio. Oggi si concentrano sia Andrea Scanzi con una pagina sul Fatto Quotidiano, a pagina 14, Fibra, i bigotti del politically correct. Come un idraulico, scrive Scanzi, che prova ad arginare la perdita d'acqua del mare cercando un rubinetto da chiudere, il carrozzone del primo maggio ha cacciato anzitempo Fabri Fibra, cioè il mare, brandendo la clava di una censura, il rubinetto, troppo masochistica perfino per Tafazzi. L'organizzatore dell'evento, Marco Godano, si limita a dire: non è nei nostri poteri rifiutare le indicazioni che ci arrivano dai sindacati. E insomma, è stato escluso Fabri Fibra perché accusato di scrivere testi contro la donna, humus da cui si genera la violenza. adesso la violenza sulle donne, che è un dramma vero, sarebbe legato ad alcuni testi di Fabri Fibra, secondo qualche mente folle. Vabbè, i bigotti del Politically Correct anche il secolo XIX, lei non sa cosa canto io, dopo il no a Fabri Fibra, racconta il secolo in una pagina molto bella, un po' tutte le censure che hanno subito i vari artisti anche per il loro linguaggio, a volte sì, un po' esagerato. Vabbè, sempre cattive notizie, mi dicono, racconti sempre cattive notizie dai giornali. Ma come no, prendi il giorno, disastro Inter, questa è la prima pagina, non è che sempre cattive notizie, vedete che a cercarle ci sono anche in prima pagina della Gazzetta, destro da KO, Inter stramazzata. Non ditemi sempre che racconto delle cattive notizie, sui giornali c'è anche tante cose buone, no? Basta cercarle, sono anche lì, in prima pagina. Chiudiamo così, c'è il giornale radio.